Radio 24 Reportage. Futurismo e letteratura, in collaborazione con la Radio Svizzera Italiana. Battaglia di Tripoli, peso più odore, parole in libertà, mezzogiorno, tre quarti, Lauro, Genti, Solleone, tum tum, ta ta ta ta ta ta ta ta. Tintinnio, zaini, ta ta ta ta ta, zoccoli, chiodi, cannoni, cassoni, frustate, panno da uniforme, lezzo d'agnello, via senza uscita, a sinistra, imbuto, a destra, quadrivio, chiaroscuro, bagno turco, fritture, muschio, giunchiglie, fiore d'arancio, nausea, essenza di rosa, insidia, ammoniaca, artigli, escrementi, morsi, carne, più mille mosche, frutti, secchi, carrube, ceci, pistacchi, mandorle, regimi, banani, datteri, tum tum tum tum, caprone, couscous ammuffito, aromi, zafferano, catrame, uovo fradicio, cane, bagnato, gelsomino, gaggia, sandalo, garofani, maturare intensità, ribollimenti, fermentare, tuberosa, imputridire, sparpagliarsi, furia, morire, disgregarsi, pezzi, briciole, polvere, eroismo, ta ta ta ta ta, fuoco di fucileria, pic pac pum, pan pan pan. Bentrovati a tutti voi in questa nostra seconda puntata in tema di futurismo. Parleremo quest'oggi del rapporto tra futurismo e letteratura e vediamo subito con il nostro ospite, che è il professor Alberto Bertoni, e lui è docente di letteratura italiana contemporanea all'Università di Bologna, di sentire la sua opinione in merito alla persona che ha, diciamo così, dato l'avvio a questo movimento culturale e artistico che così profondamente ha inciso la storia culturale del XX secolo. Stiamo parlando di Marinetti. Il futurismo forse ci sarebbe stato lo stesso, ma non sarebbe stato così senza Marinetti, così diramato, così anche potente nelle sue diverse articolazioni. Marinetti è stato fondamentale per la conformazione, la fisionomia e anche la capacità di irradiamento successivo della prospettiva futurista. Per quello che riguarda il valore di Marinetti come scrittore, devo dirle la verità, come poeta non è certamente all'altezza dei Palazzeschi, dei Govoni, dei Lucini, dei Buzzi, che hanno in qualche modo caratterizzato la poesia futurista. È una sorta di simbolista in ritardo per quello che riguarda la parte francese del suo lavoro, e poi vabbè, ci sono queste onomatopee, gli zang tum tum, queste cose che possono anche essere state positive dal punto di vista dello shock, ma da un punto di vista del valore poetico, cioè durevole nei decenni e ormai nel secolo, rimango abbastanza dubbioso. Certamente come scrittore era più forte come narratore, tutto sommato. Ecco, credo che un romanzo come Mafarca il futurista sia un romanzo che ha qualche interesse, anche le pagine di prosa, ovviamente prosa agitata, prosa lirica in un senso molto dinamico, anche dell'Alcova d'Acciaio, degli stessi taccuini del tempo di guerra che mi sono trovato a curare ormai più di 20 anni fa per il Mulino, rivelano un prosatore invece di notevole qualità. Per immaginazione senza fili, io intendo la libertà assoluta delle immagini o analogie, espresse con parole slegate e senza fili conduttori sintattici e senza alcuna punteggiatura. Possiamo dire invece, Alberto Bertoni, che Marinetti ha incarnato un ruolo importante, nel senso che in questa nuova società di massa che sta nascendo agli inizi del Novecento, lui ha ribadito il ruolo importante della figura dell'intellettuale? Sì, non c'è dubbio, lui lo ha profondamente svecchiato, lo ha lanciato a pieno titolo nel nuovo secolo, proprio nel momento in cui, se ci pensiamo, la società, la nuova società, che era poi la società agitata e contraddittoria, che sarebbe finita di lì a poco nell'orrore delle due guerre mondiali consecutive e dei totalitarismi che ci stanno in mezzo, nel momento in cui questa società revocava l'intellettuale il mandato di rappresentanza sociale che aveva avuto fino a quel momento. Baudelaire lo aveva già riconosciuto in Francia con I fiori del male una cinquantina d'anni prima, ma in Italia, ricordiamo, c'erano ancora personalità come Carducci e come D'Annunzio che incarnavano invece il poeta Vate, che questo mandato sociale a rappresentare l'ideologia e il pensiero e il sentimento di un'intera nazione ce l'avevano ben chiaro. Ecco, Marinetti è nettamente in anticipo sui tempi e davvero rilancia un'idea di intellettuale che è da un lato promotore di eventi, perché Marinetti è stato uno straordinario organizzatore degli eventi futuristi, le serate futuriste, il teatro di varietà, ci sono proprio tutta una serie di intuizioni che avrebbero connotato tutto il secolo a venire. Da un lato. Dall'altro lato Marinetti aveva uno straordinario fiuto nel leggere, nel capire gli altri anche quando erano giovani e giovanissimi, perché il cogliere al volo le personalità di Palazzeschi e di Govoni in poesia, di cogliere al volo l'irriducibilità di poetiche ma la qualità unitariamente futurista di Balla e di Boccioni in arte, beh insomma naturalmente non tutti erano capaci di farlo, quindi Marinetti in questo era uno specialista che poi non avrebbe forse più avuto nessun altro erede nel Novecento, magari facendo un'eccezione per la triade inaudiana di Pavese, Calvino e Vitorini negli anni 50. Chi sono? Sono forse un poeta? No, certo. Non scrive che una parola, ben strana, la penna dell'anima mia. Follia! Son dunque un pittore? Neanche. Non ha che un colore la tavolozza dell'anima mia. Malinconia. Un musico allora? Nemmeno. Non c'è che una nota nella tastiera dell'anima mia. Nostalgia. Son dunque che cosa? Io metto una lente dinanzi al mio cuore per farlo vedere alla gente. Chi sono? Il saltimbanco dell'anima mia. Alberto Bertone, possiamo parlare e mettere in evidenza quelli che sono stati gli orientamenti di carattere filosofico che hanno portato al futurismo? Da un lato naturalmente c'è probabilmente il pragmatismo di William James, dall'altro ci sono queste dimensioni nuove anche di una sociologia, diciamo così, della vita quotidiana, e dall'altro lato ancora c'è la riflessione di Nietzsche sulla liberazione in qualche modo creativa dell'individuo, anche quando l'individuo appunto sia un soggetto non celebrato e non museale. E direi che queste siano le componenti più forti. Naturalmente c'è una rivolta molto forte, molto evidente, credo anche necessaria, contro l'idealismo storicista. Questo viene detto anche molto bene nel manifesto tecnico della letteratura futurista dell'11 maggio 1912, che io ritengo sia veramente un caposaldo di tutta l'arte del modernismo occidentale, non solo di quella italiana, contro appunto l'idealismo storicista che in Italia invece dominava, sulla linea De Sanctis Croce, la dimensione hegeliana del divenire dell'arte. Questo mi sembra che il futurismo l'abbia combattuto molto bene, nel nome della prassi anche artigianale del fare arte, e anche questo è un'eredità forte, pesante, che ha lasciato al Novecento. Qui poi c'è una connessione molto forte con il futurismo russo e con la scuola del formalismo russo, questi grandi teorici che poi avrebbero improntato di sé tutta la ricerca letteraria e linguistica successive, che avevano anche loro attraverso Majakovskij, Klebnikov, una radice futurista. Imbullonato come un motore, pericoloso, può costituire un'arma proiettile, inclassificabile. Non si può collocare in libreria e neppure su altri mobili che potrebbe scalfire. Questo libro, meccanico, deve essere adagiato sopra un coloratissimo e soffice resistente cuscino de pero. ritroviamo Claudia Salaris, critica d'arte, studiosa del futurismo. Il libro diventa un qualche cosa d'altro, diventa un oggetto dove si riversa in tutti i sensi, non più solamente la vista, ma il tatto, il piacere di sfogliare questi libri, il piacere quindi anche dell'udito nel leggerlo, di sentire una serie di suoni, di rumori che magari uniscono quasi la musica al linguaggio. E quindi il libro che cosa fa? Riprende un po' la tradizione o la sviluppa meglio del libro d'artista, e il libro diventa, forse per la prima volta con il futurismo, davvero un oggetto d'arte? Quando Marinetti inventa le parole in libertà, innanzitutto c'è il cinema, quindi la letteratura deve fare concorrenza al cinema, e il cinema rischia di mettere in ombra questo tipo di comunicazione. Infatti allora molti si chiedono: ma il libro è destinato a scomparire o continuerà a vivere? A mio avviso Marinetti aveva una grande fiducia nel libro, non pensava al libro come qualche cosa di transitorio, anche se allora qualcuno lo disse. Per esempio Apollinaire disse che il libro era destinato a scomparire nell'epoca del fonografo e del cinema, e che le parole in libertà e i calligrammi che lui stesso aveva fatto erano il canto del cigno. Io credo che Marinetti avesse un altro punto di vista. In realtà voleva fornire nuova linfa al libro, al sistema editoriale. Amava troppo i libri Marinetti, tant'è vero che è stato uno straordinario editore, e quindi attraverso un uso rinnovato della tipografia voleva rendere il libro competitivo. I libri del futurismo, che sono tra l'altro bellissimi da vedere, da toccare, diceva Montale, nessuno può mai capire che cos'è stato un libro futurista se non ce l'ha tra le mani, se non lo sfoglia, se non lo tocca. I libri futuristi in genere erano destinati a un pubblico vasto, almeno nelle intenzioni di Marinetti. Non faceva libri d'arte, libri preziosi, come invece magari hanno fatto le altre avanguardie. Pensiamo ai libri surrealisti in particolare, che erano in copie numerate, impreziositi da litografie, disegni. No, il libro futurista era un libro di battaglia, spesso con carte anche abbastanza non buone, insomma carte dozzinali, ma era un libro che proponeva una nuova visione, una nuova concezione editoriale. Perché non fare dei libri che si aprono come organetti, macchine fotografiche, ombrellini, ventagli? Sarebbero oltremodo adatti per le parole in libertà. Io sono oltremodo entusiasta di quest'idea, e tu mi dovresti accontentare, perché anche tu sei arcistufo e nauseato dalle forme bestiali dei libri comuni.